29 marzo 2023, intervista al professor Alberto Martinelli, che era preside a Scienze Politiche durante il periodo della Pantera. La prima domanda che le facciamo è che cosa ricorda del contesto politico e sociale che portò al movimento della Pantera? Un contesto politico-sociale di grandi trasformazioni, perché era in corso l'esperimento di Gorbaciov in Unione Sovietica, stava verificandosi quel fenomeno che in genere definiamo implosione dell'Unione Sovietica. C'era stato un anno, c'era stato No, pochi mesi, poche settimane prima, direi, c'era stata l'abbattimento del muro di Berlino, c'era stata qualche mese prima, nel maggio, la grande manifestazione degli studenti cinesi e la repressione dei cinesi in piazza Tiananmen. Quindi era un movimento, contesto internazionale di grande movimento, e con una serie di riflessi anche nella politica italiana, non c'è dubbio, perché sappiamo che c'era il sistema politico italiano che era basato su questo dualismo con un partito che egemonizzava l'area di governo, la Democrazia Cristiana, l'altro partito che egemonizzava l'area di opposizione, cioè il Partito Comunista. Questi due grandi partiti, che sono i due maggiori partiti italiani, entrano entrambi in crisi. Il primo perché non ha più il nemico, l'avversario politico ideologico, il secondo perché si rende conto che l'esperienza del comunismo realizzato o del cosiddetto socialismo reale, come vogliamo chiamarlo, era in piena crisi, insomma, e quindi anche in Italia c'era molto fermento e molto movimento. A questo aggiungiamo, come sempre, che molti dei nodi dell'università italiana e della scuola italiana in generale non erano stati affatto risolti. L'università italiana era ormai da almeno 2 decenni un'università di massa, però questa transizione da università di elite a università di massa, non era avvenuta in modo efficace, efficiente, diciamo, perché c'era un accesso di massa all'università con strutture che erano ancora più adeguate a università di piccoli numeri, di elite, perché sicuramente l'università non riusciva a svolgere una delle sue funzioni fondamentali in una società democratica, cioè quella di favorire una mobilità sociale, cioè di permettere anche a giovani appartenenti a classi e ceti medio, medio-basse, di salire nella scala sociale, la famosa ascensore sociale, che oggi è ferma quasi del tutto, ma che allora incominciava a dare forti segni di rallentamento. E poi perché l'altra grande funzione, cioè quella di investire a sufficienza in ricerca scientifica in tutti i settori, scienze fisico-naturali, scienze sociali e umane, ricerca di base, ricerca applicata. In Italia si continuava a investire meno di quella che era la media dei paesi industrializzati e anche la produttività dell'università in termini di laureati, l'università italiana laureava e continua oggi, ma allora ancora di più, continuava a laureare una massa di laureati molto inferiore a quella degli altri paesi, ad esempio dell'Unione Europea, i maggiori paesi dell'Unione Europea, uno dei paesi più sviluppati. Quindi, diciamo, c'era il mix che c'era stato anche nel movimento sicuramente di maggiore respiro, cioè il cosiddetto 68 degli studenti, c'era questa commistione di due elementi, e cioè un contesto esterno in grande trasformazione, il contesto sociale sia interno che internazionale in grande trasformazione, e il disagio quotidiano che le studentesse e gli studenti sentivano. Quindi questi due elementi sono i due elementi che giustificano la protesta. Ne possiamo aggiungere un terzo, cioè il fatto che era stata presentata la riforma del ministro Ruberti, che tra l'altro retrospettivamente è stata una delle migliori, probabilmente la migliore, ma però si sa che una riforma crea aspettative, crea il desiderio di intervenire, di essere coinvolti nel processo decisionale, e quindi anche questo è stato sicuramente un elemento. Quindi tutti questi elementi un po' ci sono, e anche quello che è sempre anche un po' un fenomeno, ma non è che sia che questo sia un fenomeno imitativo, non è che ci sono miti simili a quelli che per il 68 ha avuto il Vietnam o la Cina o quel genere, no, è un fenomeno in questo senso, se vogliamo, un po' più indigeno. Però indubbiamente vivere un clima, avere la sensazione che il mondo sta vivendo una fase di grandissima trasformazione, beh, fa venire voglia di essere protagonisti, soprattutto tra i giovani, mi sembra logico. Ma che cosa ricorda dei passaggi politici nella gestione delle settimane di occupazione, sia nel rapporto con gli occupanti, sia nel rapporto con i docenti o con le autorità cittadine o nazionali, se ce ne sono stati? Ma direi intanto mi trovo in una situazione, diciamo, interessante, perché nel 68 io avevo appena iniziato a insegnare all'Università di Milano, non l'anno dopo, ma insomma in quel periodo, e facevo parte della cosiddetta associazione o comitato dei docenti democratici, che erano quelli che quando la polizia entrava nell'università andavano dal sindaco, il sindaco Raniasi. Il sindaco telefonava al prefetto e al questore, il questore prometteva che avrebbe fatto uscire la polizia, in effetti la polizia poi usciva, ma rientrava pochi giorni dopo, noi tornavamo dal sindaco, eccetera, eccetera. Quindi facevo parte di quella minoranza che era un po' per età, perché eravamo pochi anni più vecchi, cioè, un po' per orientamento generale, eravamo più vicini al movimento degli studenti. E quindi, insomma, in un certo modo, dovevo anche essere coerente. La differenza era che adesso mi trovavo in un ruolo di governo dell'università. Allora, le preoccupazioni erano, la prima, evitare ovviamente che ci fosse una degenerazione di tipo violento. A questo riguardo era aiutato dal movimento, perché il movimento della Pantera era, diciamo, in senso lato più pacifista, o comunque aveva sicuramente molto minore tolleranza della violenza nei confronti degli avversari politici di quanto non avessero movimenti precedenti, soprattutto quello del 77, rispetto al 77. Per cui quella strumentalizzazione veramente penosa, perché era stato una volta invitato in qualche università un ex esponente delle Brigate Rosse, perché hanno cominciato a dire che questo era il modo attraverso cui le Brigate Rosse riprendevano quota dopo essere ormai praticamente sconfitto, era una sciocchezza assoluta. A Roma, credo fosse Sì, credo fosse stato a stato. Roma. Per cui, diciamo, però la mia preoccupazione era questa, e era anche quella sicuramente di difendere il principio, che è il principio medievale dell'università come luogo franco, quindi la polizia non deve entrare, e quindi spesso c'erano telefonate al rettore, peraltro il rettore Mantegazza era abbastanza d'accordo su questa linea, quindi non dovevo fare poi questa enorme fatica, magari un po' di più con alcuni colleghi che invece volevano sempre la linea dura. E devo dire che in effetti ci sono abbastanza riuscito, perché se non vado errato c'è stato un paio di volte in cui c'è stato il direttore della polizia che però sono entrato abbastanza in fretta. Soprattutto perché c'erano anche alcuni, potenziali scontri con neofascisti che avevano la loro sede in via Mancini, abbastanza vicini. Quindi tra l'altro avevo un contatto anche con elementi della questura, della polizia, perché dicevo, mi raccomando, e devo dire, ho trovato anche lì della gente di buon senso, cioè che proprio capiva benissimo che non dovevano in alcun modo alimentare una reazione. Altro. Quindi c'era questa preoccupazione per evitare la violenza, garantire anche libera espressione, siamo in università, quindi ci deve essere libertà di parola. E però anche non tollerare che non si desse assolutamente la parola a qualcuno solo perché la pensava in modo diverso. Per il resto, cercare appunto di capire anche quali erano le motivazioni, le richieste, anche discutendo. A me, io mi ricordo di aver discusso con parecchio in quelle poche settimane. parecchio, nel senso di discutere con i colleghi, discutere con della facoltà, colleghi di altri presidi, ma discutere molto anche con gruppi di studenti della Fantera, me lo ricordo benissimo. Perché, ad esempio, io sostenevo che nella riforma c'erano degli aspetti molto positivi che non dovevano lasciarsi sfuggire, e cioè fondamentalmente quello di finalmente dare più autonomia alle sedi contro il centralismo burocratico-amministrativo del Ministero romano era ed è ancora oggi uno dei problemi dell'università italiana. E però capivo anche alcune delle critiche che invece erano al centro della protesta della Pantera, come quella di dire ma qui si va molto verso un'idea di privatizzazione, noi difendiamo l'idea dell'università pubblica, della scuola pubblica, quindi cioè, c'era un dibattito, non è che non ero d'accordo sicuramente su alcune cose, ma ero d'accordo su un'altra, lo stesso si discuteva, non è che non ci fosse possibilità di dialogo, anzi. Quindi direi che l'idea era quella di gestire certo la protesta perché, ripeto, avevamo delle esperienze precedenti in cui invece erano stati fatti degli errori che avevano portato anche a violenze gravi e nello stesso tempo lasciare però che ci fosse libertà di espressione e si prendessero sul serio le richieste degli studenti perché anche quelle ci sarà stato un certo quota di ingenuità, utopismo, qualche forzatura ideologica, però nel complesso c'erano anche delle rivendicazioni estremamente sensate, che tra l'altro erano anche le nostre, di docenti cosiddetti democratici. Ricorda degli episodi specifici? Sì, io ho sempre detto che la Pantera, uno dei tratti distintivi della Pantera è stato un maggiore senso dell'ironia e anche dell'autoironia, e questo è molto apprezzabile, perché in genere quando insomma, si fa qualcosa, anche molto serio, ma senza perdere la capacità di ridere degli altri di se stessi, è meno probabile che ci siano degenerazioni negative. Quindi mi ricordo sicuramente diciamo, precisione proprio con cui alcuni studenti sono andati a riprendere alcuni miei scritti giovanili in cui esaminavo, discutevo il movimento studentesco americano. Io ero a Berkeley dal 66 al 68 a fare il mio dottorato di ricerca all'Università di Berkeley e avevo partecipato là come studente, quindi loro, e avevo scritto su queste cose, quindi io sono andato a vedere e ho detto, vabbè, allora come la mettiamo? Tu facevi anche tu cose simili. E mi ricordo anche che avevano incorniciato un mio articolo che ho pubblicato sul Corriere della Sera, quello in cui avevo detto la Pantera e gli stronzi, perché criticavo molti miei colleghi che facevano finta di niente, mettevano la testa sotto la sabbia pur di non occuparsi dei problemi dell'università, e avevano messo, l'avevano intitolato Così parlò Martinelli, col titolo nicciano, no? Di Così parlò Zarathustra. Quindi c'erano questi episodi anche simpatici, che rendevano più facile anche il confronto, che il confronto c'è stato ovviamente, io ben sapevo anche loro che avevamo dei ruoli molto diversi, non c'era nessun tentativo paternalistico di dare pacche sulle spalle e così, no, no, no, io ero il preside, avevo delle responsabilità, della sicurezza delle strutture, delle persone e loro erano studenti che protestavano anche contro di me, in quanto parte del governo dell'università e quanto autorità accademica. Però nel rispetto dei ruoli direi che il dialogo non mi sembra si sia mai interrotto. Sì, mi viene in mente anche rispetto ai documenti che noi abbiamo potuto visionare, che forse un passaggio fondamentale durante l'occupazione scienze politiche è stato il blocco della didattica, Sì. che creò ovviamente un'ulteriore tensione da parte degli studenti e però diede anche agli studenti la possibilità di rilanciare e dire vabbè a questo punto interrompiamo il dialogo e gestiamo completamente noi Certo. l'università. Se magari può approfondire questo passaggio per Sì, quanto si anche ricorda. questo era di nuovo un tema, anche una rivendicazione, una modalità di agitazione e di lotta sessantottino, perché anche all'epoca c'erano state le famose RAPA, le ricerche alternative parziali. E anche all'epoca lo sforzo di alcuni docenti, tra cui c'ero anch'io, parlo del 68, era stato quello di partecipare a questa didattica alternativa, senza fare sconti, perché se la didattica alternativa voleva dire che si facevano i cosiddetti esami di gruppo e si passava tutti col 30, no, non c'era possibilità di collaborazione. Se invece voleva dire mettersi a studiare seriamente, scegliendo dei temi che nascevano anche da proposte degli studenti, da loro esigenze conoscitive, ben venga, dopo tutto era una facoltà di scienze politiche, non di geologia. E quindi era abbastanza logico, però questo è stato se vogliamo, un po' un passo, un'escalation. In questo caso l'idea era quella di gestire, mi sembra indipendentemente, anche se in quei casi poi sempre venivano invitati dei docenti a tenere, però non erano loro che Sì. ovviamente decidevano i contenuti delle lezioni, eccetera. Ma anche quello è stato una fase in cui, ripeto, non era una richiesta così. No, certo, però alludevo anche al fatto che a un certo punto il consiglio di facoltà deliberò il blocco dell'attività didattica istituzionale, no? E Sì, perché non quindi. si poteva consentire che molto a lungo ci fosse un blocco totale esautorando i docenti di quella che era la loro funzione. Badate poi che come nel 68, nel corpo docente ci sono in genere tre componenti. Quelli che sono più simpatizzano di più o capiscono di più le ragioni, quelli che si oppongono, ma perché hanno una loro concezione dell'università che si può criticare, ma comunque è di gente che all'università tiene. E poi c'è in mezzo quella che chiamiamo una palude molto ampia di colleghi che non sono particolarmente preoccupati, anzi, perché hanno più tempo per occuparsi dei loro problemi e dei loro affari. Questa è una cosa che magari a volte agli studenti Sfugge. sfugge, ma nel 68 era visibilissimo questo. Cioè c'era gente che diceva, vabbè, è chiusa, l'università è chiusa, non posso insegnare, va bene, ho più tempo per stare in studio o per fare qualcuno altro, o anche semplicemente per andare a spasso. Cioè, ma in genere, siccome sono in genere, insomma, molti hanno un'attività anche legata al loro insegnamento, anche utile, ma insomma, rilevante, e questi erano praticamente niente affatto dispiaciuti. Quale bilancio politico fa di quell'esperienza? Secondo lei ha portato dei cambiamenti in università e se sì, quali? Ma dunque, qui è un po' l'abbiamo anche studiato questo, è stato scritto da molti, anche da me, il ciclo della protesta e della riforma. I movimenti collettivi sono un attore necessario in processi di cambiamento in una società democratica. Non perché le rivendicazioni del movimento vengano accettate in toto, addirittura anche in gran parte, no. Però perché mettono in moto comunque un meccanismo in cui c'è una risposta delle istituzioni, di chi ha la responsabilità di governare, e questo comunque sposta i problemi, e poi prima che ci sia un'altra fase del ciclo, no? È abbastanza. Nel caso italiano questo funziona fino a un certo punto, perché è sempre stata debole una cultura seriamente riformista nel nostro paese. E quindi è più difficile che ci siano delle risposte all'altezza, o almeno in grado di risolvere almeno alcuni dei problemi che il movimento pone, magari dando delle risposte che non sono quelle esattamente che vuole il movimento, ma dando comunque delle risposte. In questo caso specifico, ad esempio, bisogna dire intanto che la stessa Ruberti accettò alcune rivendicazioni. Secondo alcuni questo portò poi a un indebolimento del movimento in generale, perché in effetti è vero che una parte, poi quella più vicina alle associazioni giovanili dei partiti della sinistra, si distaccò un po'. Perché obiettivamente mi ricordo che introdusse alcuni elementi nella riforma, quella del 90, che c'era, come la partecipazione, una maggiore partecipazione studentesca alle decisioni, una serie di meccanismi, delle modifiche sono state introdotte, diciamo. E poi bisogna dire che in parte almeno una risposta c'è stata, perché alla riforma Ruberti è poi seguita la riforma Berlinguer e l'università italiana cambia poi un po' di rabbia, secondo me è cambiata in peggio. Però obiettivamente un processo riformista è continuato poi. Combattute d'arresto, magari ritorni indietro, perché poi ce ne sono tante altre, poi arrivano le altre, quelle più recenti, quella tuttora più presente, perché è l'ultima che avesse un impianto organico abbastanza articolato, è la Gelmini, quindi arriva dopo e anche da una parte politica di segno diverso da quelle che erano quella di Ruberti e di Berlinguer, di Luigi Berlinguer. Però quindi questo movimento ha comunque innestato, è intervenuto in un processo di riforma, ma modificando alcune cose. Quindi non è che. E poi c'è sempre comunque questo aspetto importante che partecipare a un movimento che secondo me se è un movimento che davvero ha i requisiti di un movimento collettivo in una società democratica, quindi deve avere questo rifiuto della violenza come strumento legittimo di lotta politica. In questo caso è formativo, perché avere questa, fare questa esperienza, sia un movimento vero, non una cosa che uno deve fare come si fanno le malattie esantematiche nell'infanzia, per cui ci vuole anche l'occupazione, ma se è un movimento vero, come la Pantera è stata, poi rimane in qualche modo, rimane nella costruzione della personalità e riguarda, e Senz'altro. poi. Quindi in questo senso anche la Pantera ha svolto il suo ruolo. Quale peculiarità ha avuto come movimento? Un Ma po'. qualcosa l'ho già un po' Sì. detto, ripeto, era meno ideologico, era meno propenso a farsi catturare immediatamente da un'ideologia dogmatica o da un dogmatismo ideologico in questo senso. La battuta su Stalin e Pinitelli veniva con un po' di anni di ritardo, perché lo stalinismo era una sorta di mantra ideologico del movimento studentesco, quello del 68. Insomma, hai capito perché si vede che piaceva l'uomo forte, rivoluzionario forte. Ma però, perché poi, no. Direi che la Pantera era meno propensa, ripeto, a farsi, perché farsi catturare l'ideologia poi significa anche tradurre in un linguaggio che rende anche molto più difficile esprimere le proprie rivendicazioni. Secondo aspetto legato a questo, anche meno propenso a tollerare la violenza politica, anche se ovviamente la discriminante antifascista c'era e lì bisognava agire con una certa anche saggezza da parte nostra, perché insomma, dall'altra parte c'erano anche alcuni atteggiamenti un po' provocatori che bisognava evitare. Però. E poi l'ho detto, il fatto, un aspetto più ironico e autoironico, questo c'era. E per concludere, più in generale, ha avuto una rilevanza secondo lei sulla storia successiva e in particolare sui movimenti, per la verità neanche tanti, che si sono sviluppati negli anni successivi? Beh, insomma, sì, i movimenti successivi poi sono, come sapete, diventano sempre di più, lo erano già, ma si rafforza sempre di più la componente di movimenti per diritti individuali. Si perdono un po' di vista quelli che un tempo si definivano giustamente gli interessi di classe, cioè, ecco, c'è meno. Successivamente è molto minore la preoccupazione per le diseguaglianze, ad esempio, quello che dicevo prima, che crescono, perché questi 30 anni sono cresciuti di molto, c'è molto meno, diciamo, una lettura della società che ragiona anche in termini di contrapposizioni di interesse, di classe, di gruppo sociale. E c'è molto invece questa concentrazione su diritti individuali, di minoranze, anche di minoranze esigue. Mi sembra però difficile poter dire che questo, almeno in una piccola parte, è dovuto alle differenze che ha avuto un movimento come quello della Pantera da quelli precedenti, no, non si può dire questo. Piuttosto questo è una continuazione di quelli che sono stati i grandi movimenti di massa, che sicuramente sono stati anche molto alimentati dal movimento degli studenti, tutti, 68, 77, 90, e cioè il movimento femminista, il movimento operaio, il movimento studentesco, erano i grandi movimenti di massa, e poi sempre di più, ripeto, l'attenzione si è spostata su questa tutela dei diritti individuali. Però forse, insomma, non senza forse, un altro movimento che ha di così collettivo, che sappia davvero coinvolgere, sarebbe anche utile. Oggi sarebbe molto difficile. Ah, ecco, un'altra specificità di quel movimento che mi viene in mente: è la prima volta che si usa una tecnologia diversa dal passato. Non è più il ciclostile, ma il fax. Sì, sì. Il fax consente già la comunicazione, la mobilitazione molto più rapida, molto più efficace, quindi è veramente l'anticipazione del WhatsApp, del messaggino, insomma. Cioè, questo è importante per le forme di mobilitazione. Però non bisogna commettere l'errore di pensare che i social media favoriscano. È esattamente l'opposto, che i social media creano queste comunità virtuali molto autoreferenziali, in cui la gente, i membri parlano solo con se stessi, si trovano d'accordo, va benissimo, ma poi non riescono a concretizzare e fare un'azione collettiva, perché è molto più difficile avere movimenti di quel tipo oggi. Anche se, vabbè, come sta succedendo in Francia e in Germania, potrebbe far pensare che la mobilitazione di massa c'è ancora, ma secondo me sono molto più effimeri oggi. Sì, adesso facendo proprio una considerazione su quest'ultimo punto, ecco, io ricordo che ci fu poi nello svilupparsi dell'occupazione uno scollamento tra la parte più legata al PC fondamentalmente, sì, la FIGC, o a movimenti che si stavano sviluppando allora contro la mafia, sì, così, e la parte più radicale. Ecco, la parte più radicale si incontrò con il movimento dei centri sociali, sì, che si stava sviluppando allora, e ha avuto poi, credo, una continuità per un po' per tutti gli anni 90. Cioè, quello è stato proprio una parte della formazione anche del personale politico che è sceso in piazza, ha organizzato mobilitazioni negli anni 90, e che poi però si è perso, credo, se vogliamo fissare una data, da Genova in poi. Ecco. Certo. Questo mi verrebbe in mente come periodizzazione. È vero, mentre invece l'altra componente, non quella delle associazioni giovanili dei partiti, che erano in grande crisi, i partiti tradizionali della sinistra, per motivi diversi, ma entrambi. Poi diventerà ancora di più con Tangentopoli e tutto quanto, ma i grandi movimenti, l'antimafia, eccetera, questi invece sono cresciuti molto, e questa è anche un'eredità importante, perché oggi non è vero, è sbagliato dire che i giovani di oggi sono, ci sono molti giovani di oggi che si sentono impegnati nel sociale, sono meno propensi a tradurre in un'azione politica generale, ma vogliono perseguire degli obiettivi molto precisi, quindi possono, o sono concentrati sull'aiuto agli immigrati, sono concentrati in questa battaglia importantissima che è quella appunto della lotta alle mafie, alla criminalità organizzata, questo c'è, meno una capacità di svolgere un ruolo come un soggetto politico che riesce anche a diventare una forza politica nel paese, ecco. molti addirittura ancora prima non è che si fermino, preferiscono occuparsi di volontariato in generale, ma questo è impegno, non è che non sia impegno politico anche questo. E invece i centri sociali, come tu hai detto, si sono un po' poi esauriti, insomma. Va bene? Comunque, va bene, la ringraziamo. Come studenti possiamo anche darci, questo non è paternalismo, è cosa del tuo cuore, siamo tutti adulti ormai, anche voi. No, non siete